Buonasera a tutti, benvenuti alla seconda serata di questa Scuola Genitori 2015 che quest'anno è tutta tenuta dal nostro dottor Alberto Pellai. E ieri sera abbiamo giusto citato il fatto che abbiamo collaborato con l'ufficio famiglia della diocesi per l'organizzazione e stasera volevo solo ricordarvi che abbiamo ottenuto il patrocinio della città di Mondovì, il marchio di qualità del forum delle associazioni familiari di Cuneo e abbiamo sul volantino anche il logo di Nati per Leggere, che è un progetto in cui noi crediamo tanto e collaboriamo per questo con la Biblioteca Civica. E abbiamo potuto stampare i nostri volantini grazie al contributo del CSV, che è il centro per lo sviluppo del volontariato. Volevo dire che ringraziamo tantissimo gli scout che ieri sera hanno guardato i nostri bambini e gli animatori che li rimpiazzano questa sera sempre nei loro locali, quindi due volte grazie agli scout e agli animatori della serata. In ultimo volevo dire ancora grazie a Cinzia Ghigliano che ci ha regalato il disegno che abbiamo utilizzato per la locandina, che è la copertina di un libro delle Einaudi, di cui in questo momento non ricordo il nome, il titolo, però ce l'ha appunto regalato e lei è una bravissima illustratrice di Mondovì. E per la presentazione del nostro amico Alberto Pellai passo il microfono. Diciamo due cose di Alberto, del suo curriculum, e poi due cose che ci sono rimaste nel cuore da ieri sera e che abbiamo nel cuore già da tempo, leggendo i suoi libri. Lui è medico, è psicoterapeuta, è sposato, è papà ed ha quattro figli. Mi sembra che nell'ordine di importanza siano tutti titoli molto, molto, molto preziosi. È ricercatore in sanità pubblica presso il Dipartimento di Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano. Ha scritto numerosi libri, ne cito solo alcuni, Nella pancia del papà, Il primo bacio e altri che sono tutti fuori a disposizione per la vendita. Ha collaborato a una trasmissione radiofonica su Radio 24, questa casa non è un albergo, che poi è stata interrotta ma che è stata molto bella e molto, molto apprezzata per diversi anni. Tiene ogni settimana su Famiglia Cristiana una rubrica in cui risponde alle lettere che vengono inviate dalle mamme e soprattutto è anche autore di canzoni, mi permetto di dirlo, perché sua è una canzone dello Zecchino d'Oro di qualche anno fa, Il bullo citrullo, che qualcuno forse se la ricorda ancora, l'autore era lui, e gareggerà in questa edizione un'altra canzone sua, Le impronte del cuore, che sentiremo e magari qualcuno da Mondovì voterà, possiamo anche dirlo, nella prossima edizione di novembre, che inizierà tra pochissimi giorni. Gli cediamo subito la parola, la serata si svolgerà come ieri sera, un corposo intervento suo, bello e stuzzicante, e poi la possibilità di fare un po' di dialogo. Non potremo fermarci fino a tarda notte perché lui riparte stasera per tornare a casa sua e colgo l'occasione per ringraziare sua moglie che ha lasciato che lui venisse qua ed è a casa che presidia il forte, quindi insomma. La ringraziamo tanto e ringraziamo tantissimo gli animatori. Abbiamo 80 figli a Baglia questa sera, quindi possiamo dirti, caro Alberto, che qua c'è tutta gente che ha di sicuro materiale umano a casa sua, come ce l'hai tu, per lasciarsi interrogare e insomma raccogliere suggerimenti. Di lui apprezziamo tantissimo la chiarezza, la professionalità, la sua saggezza che viene proprio distillata dalla sua vita e soprattutto la via per arrivare al cuore dei nostri figli e al cuore di ciò che per noi è più prezioso, la loro felicità, la loro gioia, la loro realizzazione. Grazie mille. A voi. Grazie. Allora, grazie a voi. Io con queste presentazioni vengo una volta alla settimana a Mondovì a fare una conferenza, perché uno tira su l'autostima. Allora, intanto buonasera a tutti, ci ritroviamo. Stasera è una sera molto più destrutturata rispetto a quella di ieri, nel senso che vorrei condividere con voi alcune riflessioni sulla coppia genitoriale, sull'essere mamma e papà e sul fatto che spesso noi portiamo nella nostra coppia genitoriale, un codice materno e un codice paterno che risente moltissimo del maschile e del femminile da cui proveniamo e che in qualche modo ci fa essere genitori con un certo stile, in un certo modo con i nostri figli, con tutto il magari il buono, ma anche con un po' tutti i limiti che a volte questo, soprattutto per noi uomini, porta nell'esperienza dell'essere papà. Io credo di essere più esperto dell'essere padre rispetto all'essere madre, quindi è proprio su questo che farò più riflessioni, ma parto da un'immagine su cui poi abbiamo riflettuto tanto anche io e Barbara. Io e Barbara abbiamo scritto, io e mia moglie abbiamo scritto questo libro che si chiama I papà vengono da Marte, le mamme da Venere, e l'idea era proprio quello di raccontare agli altri genitori cos'è successo a noi, uomo e donna, marito e moglie, papà e mamma, quando siamo abbiamo dovuto sintonizzare e sincronizzare i nostri codici educativi, il nostro modo di vedere i figli. Scrivere il libro è stata una delle esperienze più travagliate della nostra vita di coppia. Abbiamo litigato come non mai, proprio perché dentro al libro e dentro alla stesura di un libro a quattro mani riemergevano continuamente un po' le fatiche che facciamo giorno dopo giorno nello stare allineati, nel costruire insieme un progetto educativo che contempli i nostri stili, le nostre visioni, i nostri modi di essere. E proprio un po' pensando alla serata di questa sera ed è una delle immagini di famiglia che abbiamo messo dentro al libro, questo è il primo racconto. Una domenica pomeriggio Jacopo, che è il nostro figlio maggiore che non ne può più di essere il protagonista delle conferenze di suo papà e che ha detto che un giorno si vendicherà, lui farà un video del padre, lo metterà su YouTube e quindi anche lui farà la sua conferenza e farà vedere cose che nessuno si immagina. Detto questo, Jacopo un pomeriggio, una domenica pomeriggio, tra le 5 e le 6, proprio era autunno, torna a casa dall'uscita scout. Adesso lui non è più uno scout, allora era in quinta elementare e era piovuto tutto il weekend. Lui entra dal cancello, sale le scale del nostro cortile per entrare in casa e mia moglie dice di aver visto un pulcino intirizzito, fradicio, bisognoso di essere accolto, riscaldato, protetto, e quindi lei, insomma, ci ha pensato a lui tutto il tempo durante quel weekend perché era piovuto davvero tanto. Jacopo intercetta probabilmente questa zona di accudimento della mamma e il suo annuncio, proprio entrando in casa, è: sia chiaro a tutti che io domani non vado a scuola perché sono stanco morto. Quindi ci informava che lui aveva già preso la sua decisione e che lui quel giorno, il giorno seguente, stava a casa a riposarsi dall'uscita scout, che era stata un'uscita un po' travagliata e molto bagnata. La mamma mi guarda con questo occhio possibilista e dice: insomma, non gliene concediamo mai una, era questo il concetto, quindi domani potrebbe anche essere. A quel punto entro in gioco io, che dico: ma oggettivamente noi non l'abbiamo mandato alla catena di montaggio né in un parco a 6.000 metri o 7.000 metri sull'Everest, cioè è andato a fare l'uscita degli scout, che in realtà è anche una sua scelta, noi l'abbiamo sostenuta, ma dovrebbe rientrare in quella zona della vita che si chiama avventura e divertimento e non fatica e sfinimento. Per cui io personalmente dico: ma proprio perché non l'abbiamo mandato alla catena di montaggio, credo che se Jacopo è molto stanco può già andare a letto adesso, può dormire fino a domattina alle 7:30, si riposa tanto e domani potrà andare a scuola come io vado al lavoro, come la mamma farà tutte le sue cose. Da qua parte un quadro familiare abbastanza intenso, perché Jacopo fa la rivoluzione, la mamma dice: in realtà non glielo permettiamo mai, non l'abbiamo mai fatto, e io rimango in una zona che è quella invece di: io credo che Jacopo ce la fa domani tranquillamente andare a scuola. Per cui per mezz'ora ognuno ribadisce un po' le sue posizioni, ma io faccio proprio un po' il padre padrone in questo caso, cioè dico per me non c'è discussione. Quindi lui va in camera sua furibondo dicendo e io non studierò e io non farò i compiti, quindi si aggiunge un piccolo pezzo, lui non aveva preparato compiti e lezioni per il giorno dopo e aveva tutta questa cosa qua e io rispondo sei liberissimo di non fare i compiti, di non fare le lezioni, domani spiegherai ai tuoi insegnanti, alla tua maestra che eri troppo stanco per fare i compiti e le tue lezioni. Io non glielo spiego, se glielo spieghi tu sei più che autorizzato. Dopodiché gli dico se sei molto stanco puoi andare a dormire, perciò a questo punto, e lui scompare per circa un'ora e un quarto, noi non lo vediamo più e la discussione invece prosegue al piano alto del videogioco, proprio a livello successivo del videogioco tra mamma e papà, tra a che cosa serve un papà, a che cosa serve una mamma. Noi non riuscivamo a sincronizzare bene, fondamentalmente la mamma diceva che la sua percezione era che ogni tanto si può fare un'eccezione alla regola. Io personalmente non consideravo quella un'eccezione necessaria. Dopo un'ora e un quarto il signor Jacopo Pellai ricompare con i compiti fatti e la seguente richiesta: io ho finito di fare i compiti e le lezioni, perciò questa sera voglio vedere la partita dell'Inter che sarebbe cominciata alle 20:30. Notoriamente a casa mia non c'è la televisione, quindi ci saremmo dovuti organizzare per portarlo dai nonni che invece hanno la televisione, si può vedere e da loro si può vedere la partita dell'Inter. Quindi io faccio questo intervento e dico: ah, guarda Jacopo, se hai fatto i compiti e le lezioni e ti sembra di aver recuperato le energie di quella stanchezza intollerabile con cui eri entrato in casa e te la senti di andare a vedere la partita, mi sembra sacrosanto, potrai vedere la partita fino alla fine e domattina ti alzerai per andare a scuola come tutte le mattine, devi decidere tu, perché se sei molto stanco magari vedi solo il primo tempo. No, la voglio vedere tutta. Quindi il mio secondo intervento, d'accordo con la mamma che a questo punto in realtà si è attivata e dice ah però, è che Jacopo ci mettiamo subito in azione, chiamiamo i nonni, diciamo che Jacopo andrà da loro a vedere la partita dell'Inter, la vedrà tutta, mentre di solito quando ha questa cosa poteva vedere solo il primo tempo, e che lo andremo a prendere finita la partita. La mattina dopo alle 7:10 il signor Jacopo Pellai si sveglia cantante, proprio bello tranquillo, prende, fa tutte le sue cose e se ne va a scuola. Ecco, nel rivedere anche questo episodio, quando poi lo volevamo raccontare nel libro, noi ci siamo proprio resi conto che il paio di occhiali con cui stavamo guardando nostro figlio in quel ritorno di quel famigerato pomeriggio della domenica d'autunno in cui lui tornava a casa tutto intirizzito, era che mia Barbara vedeva veramente un figlio da proteggere, un pulcino intirizzito, un bambino bisognoso di protezione e di cura. Io non ce l'avevo proprio dentro quel file lì, a me non mi si era attivato, cioè io vedevo un quasi preadolescente che aveva fatto una cosa molto avventurosa. Noi non possiamo prenotare il bel tempo quando ci sono le uscite degli scout, quindi nel momento in cui fa quell'esperienza è un po' nel gioco delle parti, e in tutta onestà io nel sentire che ce la poteva fare vedevo per lui una zona di crescita, e questa cosa qua dove alla fine il papà ha tenuto un po' di più sull'idea che lui era ce la faceva, ce la poteva fare, non andava protetto ma andava proprio visto un po' più competente, un po' più potente di quello che era invece nella mente della mamma, alla fine ha attivato dentro di lui tutta una serie di atteggiamenti virtuosi, compiti e lezioni fatti a tempo di record, richiesta di fare una cosa da grande, di essere trattato come un grande, concessione questa cosa, e questo è entrato poi nel suo file operativo, la mattina dopo non aveva nulla da recriminare. Direi che in questo esempio c'è molto, no? A volte di quello che anche nel lavoro di psicoterapeuta vedo rispetto a quella zona di fatica che a volte si incastra nel nostro lavoro di genitori, dove mamma e papà devono prendere una grande decisione, sintonizzarsi, sincronizzarsi all'interno della loro coppia e in qualche modo decidere di fare squadra, oppure trovarsi in quella zona dove l'educazione diventa una sorta di tiro alla fune. La mamma sta da una parte, il papà sta dalla parte e a quel punto il figlio sta in mezzo, in una zona non chiara, in un non territorio educativo, dove diventa difficile sentirsi protetto, cioè sentirsi previsto nel proprio modo di fare da due genitori che sanno fare il loro mestiere. Rispetto a questo, questa a volte non chiarezza, non capacità di costruire anche nella differenza uno stile genitoriale condiviso, in questo momento è anche raccontato bene in tanti libri dall'immagine del cosiddetto bambino tiranno. Il bambino tiranno è spesso quel figlio che, grande come una cacciottina, tiene in realtà in piedi e gira a suo volere il mondo degli adulti che ha intorno con una modalità che a lui per primo risulta confusiva e che non riesce a interrompere, perché fondamentalmente si accorge di aver acquisito uno straordinario potere sugli adulti di riferimento, e gli adulti di riferimento progressivamente diventano sempre più deboli, e lui implicitamente dice: ci sarà qualcuno che viene a fermare questa scalata verso l'alto che sto facendo. A volte capita, no, di vedere un bambino con sei adulti di riferimento, una mamma, un papà, due nonni materni, due nonni paterni, e tutti fondamentalmente a suo servizio. Un bambino che fa cambiare per 8 volte i biscotti della colazione, un bambino che fa rifare il primo che ha nel piatto per 4 volte, prima alla mamma e poi alla nonna, e fondamentalmente ottiene sempre obbedienza. Una delle scene più clamorose che ho visto io è quella di un bambino al ritorno dal mare alle 7 di sera circa, passa davanti alla gelateria con una mamma che è sola e quindi lo sta gestendo lei, no, durante le vacanze, e lui, passando davanti alla gelateria, dice: io voglio il gelato. E la mamma risponde: ma no tesoro, il gelato no, perché adesso andiamo a cena e quindi eventualmente lo avrai dopo cena. Intanto però si fermano lì, davanti alla vetrina della gelateria, e lui ribadisce: io voglio il gelato. E quindi la mamma, con una voce sempre più debole, dice: ma no tesoro, no, dai tesoro, adesso andiamo a casa. Tesoro amplificato alla n volte, e questo tesoro diventa in realtà sempre più una roccia, sempre più lo voglio, lo voglio, la voglio. Per cui per me è interessante vedere che la mamma non riesce a usare in quel caso un codice un po' paterno, no? un po' autorevole, si indebolisce sempre di più fino a che per sfinimento prende il bambino, entrano in gelateria, lui ordina il cono gelato, la mamma lo paga, escono dalla gelateria e la prima azione che il bambino fa è butta per terra il cono gelato e lo pesta con il piede. Quindi fa un'azione dimostrativa pazzesca, che in quel momento racconta in modo abbastanza chiaro che non aveva fame, non aveva voglia del gelato, era dentro una zona non risolta dove sentiva il bisogno di trovarsi di fronte degli adulti chiari. Degli adulti che, se non è il momento della cena, se non è il momento del gelato, andiamo a casa. E quindi ti faccio sentire, no, per esempio, la forza sul braccio, proprio ti faccio sentire che ho un po' più di forza della tua, e quindi ti sposto da lì, ti sposto dalla vetrina, ti prendo in braccio, ti tengo con me, ti porto in una zona dove comunque capisci subito per il movimento che facciamo che non puoi stare lì e non potrai avere questa cosa, perché questa cosa la decido io, mamma. Devo dire che nel fare un po' questo lavoro di sostegno alle fatiche, il mio è proprio un lavoro per me interessante, a volte bello, a volte proprio un po' disorientante, cioè ho la grande fortuna di essere, oltre che terapeuta, un marito e un papà, di fare tanti errori nella mia vita di tutti i giorni, ma più o meno ho una bussola in mano che mi dice qual è la direzione dove come famiglia dobbiamo orientarci. Ecco, devo dire che mi capita davvero tanto in questi anni di vedere mamma e papà che si sono un po' persi, cioè si trovano in zone di profonda solitudine all'interno della loro coppia, sia affettiva che genitoriale, un territorio dove l'aver costruito una cosa grande, una cosa importante come la famiglia, una coppia che ha fatto dei figli, in realtà invece che diventare il modello attraverso il quale progressivamente facciamo squadra, diventa una di quelle zone della vita dove progressivamente diventiamo sempre un po' più soli, ci concentriamo tantissimo sulla buona educazione di un figlio, ma non riusciamo a mantenere una vicinanza emotiva, a volte una vicinanza intima, profonda proprio nel piano alto della coppia, nella coppia affettiva. Una delle cose che mi colpisce tanto è proprio una delle lettere su cui ho lavorato in questi giorni e che uscirà su Famiglia Cristiana, è per esempio vedere che quando diventiamo genitori, molti di noi in coppia perdono l'abitudine all'intimità sessuale, cioè perdono quel codice adulto di mantenimento di una relazione tra uomo e donna, tra compagno e compagna, tra marito e moglie, che non è. Che è un po' il codice, no? Che è proprio un po' la connotazione che ci fa dire che noi riusciamo a tenere un nostro spazio, un nostro modo molto esclusivo di non essere solo la mamma e il papà di un bambino, ma essere anche compagno e compagna di vita. Nel mio personale anche percorso, io mi rendo conto che nella prospettiva di un maschio, nella prospettiva di un uomo, effettivamente parte della responsabilità in questa zona faticosa è che a volte le mamme magari sono iperprotettive, ma spesso anche perché rimangono un po' sole dentro alla coppia. Noi viviamo una sorta di percezione di esclusione, le vediamo così fuse, simbiotiche con il loro bambino e noi progressivamente continuiamo un po' a funzionare come non mi guarda più, no? Non sono un po' più lì. Farvi vedere questa breve sequenza tratta dal film Shrek Terzo, che è un film molto molto interessante perché in questo film Shrek diventa papà e questa è la scena in cui Fiona annuncia a Shrek che diventeranno genitori e dove possiamo vedere un sacco di cose interessanti sul maschile e sul femminile. Shrek, Sentite? forse dovresti restare e fare Oh, dai, non c'è verso che io possa governare un regno. Per questo tuo cugino Arthur è una scelta perfetta. Non è questo, no. È che, E vedi. se dovesse crearmi dei problemi, io sempre. Scusate, Occasioni, ed ecco il buon senso. Fione, presto saremo solo tu, io. È la nostra palude. non saremo affatto solo tu e io. Tutti a bordo! E invece sì, te lo prometto. Io ti amo. Shrek! Sì? Aspetta! Che cosa c'è? Ti amo anch'io, tesoro. Sei cosa? In che senso? Già, zio! Diventerò zio! Diventerò zio! E tu, amico mio, sei realmente forte. Meglio fuori che dentro, dico sempre. Ci fermiamo qua perché mi piace tanto questa sequenza e cercherò di vederla un po' nelle caratteristiche femminili e maschili, ma poi mi muoverò sempre di più nel territorio della paternità e del maschile, che farò diventare il soggetto di alcune riflessioni che condivido con voi stasera. Allora, intanto la cosa interessante, è veramente bravo lo sceneggiatore che ha pensato il film, perché quello che voi vedete è che c'è una modalità completamente diversa di entrare nella genitorialità, nel mondo della mamma e nel mondo dei papà. La mamma sta lì a terra e quando dà l'annuncio ha subito vicino qualcuno, un'altra amica che le mette una mano sulla spalla e che in qualche modo è già pronta a fare una condivisione emotiva e dell'esperienza con lei. Shrek, quando scopre che starà per diventare padre, intanto all'inizio fa fatica a capirlo, poi prova a chiedere in che senso, e intanto progressivamente lo vedete che lui si sta muovendo su una nave che lo porta in un altro territorio, come spesso succede a volte, no? A noi uomini, che siamo costantemente in una zona di movimento, proiettati nel fuori. La cosa poi interessante è che quando lui sa che diventerà papà, il suo amico non fa un gesto intimo, ma dà un commento che riguarda lui se stesso: diventerò zio, e l'altro amico che ha vicino gli fa capire che tu sei proprio matto, come hai provato a fare una cosa del genere. E questo quando l'ho visto, mi ha fatto molto ripensare a come è stato per me quando sono entrato nel territorio della paternità. Io effettivamente non mi sono trovato subito lì, pronto, sintonizzato sul pezzo. E l'altro aspetto è che quando ho provato a comunicare, per esempio tra i miei colleghi, che sarei diventato papà, lo stile frequente è stato quello di andiamo a brindare, facciamoci gli auguri e poi un lungo elenco di cose che avrei perso per sempre. Quindi viaggia adesso, fai l'amore adesso, fai tante cose belle adesso, dormi tanto adesso, metti via tutta sta roba qua, perché poi è finita per sempre. Questo è stato, no, un po' il modo di comunicare, di entrare nella comunità degli uomini che diventavano padri. E devo dire che questo mi ha molto confuso. Un altro aspetto interessante è che mio papà, di fronte a questa comunicazione, non è stato capace di dire quasi niente, cioè era contento, ma fondamentalmente non c'era nessun passaggio di niente da padre a figlio. Diversissima l'esperienza di Barbara, cioè una annuncia la sua imminente gravidanza, annuncia che è incinta e c'è subito un cerchio, no? Di donne tutto intorno, cominciano le telefonate, cominciano le mamme, le suocere che si attivano e si parlano. E in realtà questo mi ha fatto così riflettere che io ho provato, dopo che è nato Jacopo, ho proprio proposto al consultorio familiare della città dove vivo di provare a fare una cosa che si chiama il cerchio dei papà, cioè parallelamente al corso di preparazione al parto frequentato dalle mamme, a volte aperto anche ai papà. Per esempio a me mi avevano ammesso alla lezione sul massaggio, dove io dovevo imparare a fare questa roba. E poi quando mia moglie ha partorito, non voleva quella roba lì, lei ne voleva un'altra, e quindi non è che serviva molto. Però mi è venuto chiaro che a me mi dovevano insegnare una funzione abbastanza semplice che io dovevo essere in grado di eseguire. Però mi sono proprio detto, non mi serve a molto sta cosa qua, cioè nelle cose che mi stavano succedendo dentro, nel mio passaggio da uomo a padre, da maschio a genitore di un altro maschio, quell'esperienza lì e basta, non era, a me personalmente non era di grande aiuto. E anche la comunità maschile, di noi uomini che dobbiamo entrare in un territorio che ci cambia così tanto la vita per sempre, ce la cambia dentro e ce la cambia fuori. Ecco, era un territorio veramente piatto. Era molto più facile continuare a parlare poi di politica o di sport che del mio figlio che stava per nascere e di quello che mi stava succedendo dentro. Quindi io ho detto, questa non è effettivamente una cosa che a noi uomini fa bene. Per cui una delle cose belle che sono riuscito a fare col mio mestiere è stato poter parlare poi con tanti tanti papà. Abbiamo fatto tante edizioni del Cerchio dei Papà, riverificando un po' insieme quali erano le cose che a volte bloccavano il nostro codice genitoriale paterno, perché a volte non riuscivamo a stare lì, perché a volte fuggivamo. Una delle cose che ho visto fare più di frequente è che nasce un bambino, aumentano le spese, allora io lavoro molto di più e sto quindi più fuori casa, così possiamo sostenere di più le spese, ma intanto la mamma è a casa da sola sul divano. E una delle esperienze più faticose per le donne è quei 7 giorni dopo che siamo tornati a casa con il mio bambino primogenito, e lì cambia tutto e io mi devo preoccupare proprio dall'inizio alla fine di qualcuno che è un po' per me uno sconosciuto. Allora, l'idea del cerchio dei papà era per esempio quello di sostenere una compresenza del papà, prima di tutto a fianco della sua compagna, e poi progressivamente pensare che coinvolgere il papà fin dai primi passaggi, nei gesti di cura e di accudimento del proprio bambino, fosse una cosa che avrebbe fatto bene a tutti, alla mamma, al papà, al bambino, ma soprattutto avrebbe mantenuto un'intesa forte, una sintonia forte nella struttura familiare, e questa cosa sarebbe probabilmente poi andata avanti bene per tutte le successive fasi del ciclo di vita del bambino e nel suo percorso di crescita. Un aspetto interessante che i papà ci hanno un po' raccontato è stato che entrare nella funzione paterna, nel ruolo paterno, per molti di noi ha significato anche rivedere un po' il figlio che siamo stati e il papà che abbiamo avuto. E molti di noi effettivamente si accorgono che per noi uomini è abbastanza facile aderire ad un modello di essere l'uomo di casa stando molto fuori casa, come faccio io, per esempio, ieri sera e stasera i miei figli sono completamente senza papà e, come diceva bene Nicoletta, la mamma fa il presidio del forte ed è là da sola. Quindi io devo avere ben chiaro che domani e dopodomani, per esempio, recupero le mie funzioni, perché se tutto va in accumulo, effettivamente sconnetto la mia presenza in questo periodo, in questi giorni, nella vita dei miei figli. Ripensare al papà che abbiamo avuto, per alcuni di noi, per alcuni uomini, è stata un'esperienza forte, un'esperienza significativa. Una delle cose che mi ha colpito di più nel lavoro, il lavoro sul papà che abbiamo avuto lo facciamo di solito al quarto incontro, quando il gruppo è diventato ormai un gruppo molto compatto, dove c'è stato molto scambio emotivo, e una delle cose che mi ha colpito tanto è stata questa, che molti di noi raccontano di aver fatto un po' una rincorsa per tutta la vita. Poi ognuno ha la sua storia, sia chiara, perché rispetto al suo papà si sarebbe voluto sentir dire almeno una volta nella vita: ti voglio bene e tu sei importante per me. Due frasi, ti voglio bene, che in realtà tra uomini si fa molta fatica a dirsi. Io credo questo di averlo visto anche a volte in alcuni percorsi di psicoterapia. Ho sinceramente visto uomini davvero affaticati, ecco, nella rincorsa di un papà al quale si voleva dimostrare tantissimo, e se tu devi dimostrare tante cose al tuo papà, rischi poi, quando sei papà, di non riuscire a diventare un papà del tuo bambino, perché sei ancora il figlio di quel papà cui devi dimostrare un sacco di cose, e in realtà non esserci proprio riusciti alla fine a farsi dire ti voglio bene. Quindi, per darvi un esempio, una delle cose che su cui noi riflettiamo con i neopapà è che quando nasce il loro bambino, loro, anche se non ce l'hanno dentro quella cosa lì, sono ancora un po' storditi come Shrek, che si domanda in che senso diventerò papà. Noi gli diciamo: tu quando prendi in braccio il tuo bambino, comunque almeno 10 o 15 volte consecutivamente, una volta al giorno, lo guardi negli occhi e gli dici ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, anche se non ti sembra una cosa facile, anche se non ti sembra qualcosa che ti viene naturale o ti viene spontaneo. La cosa interessante è che questa comunicazione emotiva profonda dura poi, diventa proprio un po' un'abitudine, cioè entra in gioco nella relazione tra il papà e il suo bambino, e è molto molto utile in adolescenza, dove un'altra delle cose che scopro facendo il mio mestiere come codice maschile, codice paterno, è che quando i nostri figli ci fanno dannare, per noi è molto facile arrabbiarci e dire tutta una serie di sei un idiota, sei un deficiente, ma come ho fatto a metterti al mondo, tutta questa serie di fraseggi, ma molte volte per noi è molto molto difficile provare invece a dare una comunicazione positiva quando i nostri figli fanno delle cose particolarmente fatte bene, che ci colpiscono in modo particolarmente significativo. Cioè, quanti di noi riescono a dire a un figlio adolescente: questo per lui è veramente un sostegno alla crescita molto forte, un potenziamento all'autostima molto importante, sono molto orgoglioso di te per quello che hai fatto, sai che quello che hai fatto mi ha veramente colpito tanto, non me l'aspettavo da te, mi hai veramente colpito con i tuoi effetti speciali. Nella mia esperienza di terapeuta mi accorgo che tante volte i figli adolescenti questa cosa qua non se la sentono fare o raccontare, in particolare dai papà. Se abbiamo un figlio maschio, questo è un figlio maschio, fa molto bene. Provo a darvi degli esempi concreti. Torna a casa con la pagella, ha una bellissima pagella e 5 in latino. L'unico commento che viene fatto è: però quel 5 in latino, l'unico. Prende 8 meno meno e la domanda è: perché il meno meno? in molti casi siamo proprio cresciuti un po' così, cioè per noi stare sull'azione, stare sulla prestazione, effettivamente nel codice maschile è proprio una cosa abbastanza frequente, è lì dove noi ci affermiamo. Io sono Alberto Pellai e faccio il medico e lo psicoterapeuta. Ci viene abbastanza facile per noi maschi, quando ci presentiamo, raccontarci subito con il lavoro che facciamo. Dire che siamo mariti, dire che siamo padri, sentire che questa dimensione costruisce proprio la complessità del nostro essere umani, a volte è un po' più difficile, no? Voi di molti colleghi, del vostro capo, a volte sapete tutto della loro carriera professionale e magari sappiamo poco o pochissimo invece della loro vita personale o privata, come se questo non entrasse nella costruzione dell'identità. Se voi guardate le copertine dei femminili, molte volte le donne hanno in braccio i loro bambini, hanno anche quel codice materno che viene raccontato nel pubblico. Gli uomini, voi vedete sempre la giacca e la cravatta, quella faccia lì un po' impostata, ma è molto difficile che noi intuiamo anche il codice paterno o il codice umano personale che sta dentro alle loro storie di vita. Una delle cose interessanti che abbiamo fatto con i papà con cui abbiamo lavorato è stato fargli scrivere una lettera al loro figlio che era appena nato, e l'idea è partita proprio dal fatto che molti di loro, nel raccontare la loro storia di figli con loro papà, erano bisognosi di parole che non erano mai state dette in modo chiaro, parole affettive. Tutti riconoscevano di aver avuto dei padri molto impegnati, molto capaci, molto volitivi, oppure molto lavoratori, molto attenti ai bisogni reali, insomma, quelli che vanno comunque assolti, ma c'era poi questo vuoto di parole che costruiscono anche i significati profondi. Quindi una delle idee che abbiamo dato ai papà è stato: scrivi una lettera a tuo figlio in questo momento, dove proprio racconti che cosa stai provando nella tua trasformazione da uomo a padre, e prova a immaginare che cosa sarà per tuo figlio ricevere in dono questa lettera, per esempio nel momento in cui lui compirà 18 anni e diventerà maggiorenne. Che cosa avrebbe rappresentato per te ricevere dal tuo papà una lettera che lui scriveva apposta per te e con cui connotava quel passaggio lì nella vita? Devo dire che questa per me personalmente è proprio una delle mosse che a volte consiglio anche in terapia: scrivere, lasciare traccia scritta di quello che sentiamo e che a volte è difficile da dire di persona o in faccia. E l'altro aspetto è che molte volte anche nella fase di fatica, come genitori, in quelle zone dove ci sembra che si rompe la nostra intesa con un figlio, perché stiamo magari tenendo una posizione un po' forte, ecco, riraccontare dentro una lettera perché sto facendo questa cosa, come mi sento, la fatica che sento dentro, e come comunque anche dentro questa fatica io continuo a volerti bene. Un'altra cosa molto interessante, che però la lettera al figlio l'hanno scritta fondamentalmente quasi tutti i papà. Abbiamo davvero raccolto decine e decine, più di 100 lettere, e ed è stato molto bello poi leggerle insieme dentro al cerchio di papà. Un'altra cosa, passaggio significativo, è stato fare scrivere una lettera al papà che abbiamo avuto, una lettera non necessariamente da consegnare. E questa effettivamente è una di quelle zone dove si fa più fatica. Io stasera vorrei condividere con voi due lettere che raccontano due percorsi di paternità e quindi di figliolanza molto molto differenti, agli antipodi, che però attraverso delle parole ci danno immediatamente un po' la percezione di qual è il territorio in cui è bene costruire una relazione con un figlio. La prima è una lettera molto dolorosa, e l'ha scritta questo papà che ha detto così al suo papà. Questa è una lettera che non è mai stata consegnata. Lettera a mio padre: non sono mai riuscito a dirti davvero quello che avevo nel cuore, perché mi hai sempre fatto paura. Temevo il tuo giudizio, le tue mani sulla faccia, quante sberle mi hai dato, il tuo sguardo a volte ironico, a volte sprezzante. Avevo paura sempre di essere qualcosa di diverso da ciò che tu avresti invece desiderato. E infatti sono diventato davvero differente da come tu avresti voluto. Ho scelto un lavoro che disprezzavi, una donna che non ti piaceva. Ho cresciuto i miei figli con la gioia nel cuore e soprattutto con la voglia di padre, quella che io non ho mai avuto per te e con te. E ora che ti vedo incamminarti verso la vecchiaia, mi rendo conto che la solitudine con cui mi hai cresciuto è la solitudine con cui tu sei cresciuto e hai vissuto sempre. Non avevi altro modo per essere ciò che sei stato e la mia rabbia nei tuoi confronti è diventata tristezza. Tristezza perché ho capito che hai rincorso molte cose nella tua vita senza mai afferrare, forse la più bella, il mio amore di figlio. Non l'ho cancellato il mio amore per te, l'ho nascosto in un angolo del mio cuore. Chissà che questa lettera mi aiuti a rendertelo visibile. Ciao papà, tuo figlio. Un po' per legge del contrappasso vi leggo quest'altra lettera che in realtà ci fa vedere un percorso completamente differente. Ciao papà, approfittando della bella esperienza del circolo dei papà, ho avuto modo di ripensare a noi, al nostro rapporto e a che papà vorrò dovrò essere io per il piccolo Simone. Ormai non manca molto alla sua nascita e io sono veramente felice di questo. Sicuramente voglio diventare per lui un punto di riferimento, come tu lo sei per me. Per te è stato naturale, ma con la tua dedizione al lavoro, l'attaccamento ai sani principi e al rispetto dell'educazione, sei stato un riferimento. Hai dovuto lasciare gli studi presto, il primo figlio maschio in campagna è destinato al lavoro nei campi o con gli animali, e poi hai sempre ammirato e stimato i tuoi clienti con il diploma o la laurea in mano, per il modo di parlare, e li hai sempre ritenuti colti. Non ti sei però mai accorto come la tua passione per le enciclopedie, per i libri di montagna, le letture di riviste come Irone e soprattutto la tua vita vissuta ti avessero comunque insegnato tantissimo, rendendoti per me comunque una persona colta. Come dimenticarsi delle ore di domenica passate in giro per le campagne lodigiane, per le tue famose gite ecologiche, che alla fine erano un girovagare per campi e paesi senza mai fermarsi, ma per noi erano tutto, erano una domenica in famiglia, erano la nostra domenica. Cosa si può dire del senso della famiglia, del tuo voler cenare con tutti noi la sera, anche se tornavi tardi, il rito di andare a trovare il nonno Mario, tuo papà, l'altro punto fermo ed esempio che ho, e la nonna Piera tutte le domeniche, erano un insegnamento, un attaccamento alla famiglia. Per noi cugini ritrovarci le domeniche dai nonni con gli zii erano parte della nostra vita. Ora vado ancora volentieri a trovare la nonna anche con la Ste, soprattutto ora che sta per diventare bisnonna. Questo mi rende ancora più felice. Il nonno invece sono riuscito ad andarlo a trovare solo una volta al cimitero, quando già era in compagnia dello zio Luigi. Lì proprio non riesco ad andarci, lo tengo stretto nei miei ricordi, preferisco ricordarlo lì seduto sul divano della sua sala, mentre si gode i nipoti e i figli, e la nonna che risponde per lui a tutte le domande che gli rivolgi. Voglio tornare a trovarli al cimitero con Simone prima di andare in Francia, spero di riuscirci. Ho inoltre un ultimo splendido ricordo, che è quello relativo alle nostre gite in montagna. Mi hai iniziato da piccolissimo con tuo papà, per poi trasmettermi tutta la tua passione per la natura, la montagna e lo sport. Per me questo è stato l'ultimo tassello di quel che mi hai insegnato. Perché proprio grazie alla passione per la montagna e per lo sport ho imparato poi il significato di sacrificio, lo spirito di sopravvivenza, il significato di fatica e di obiettivi. Ho ancora nitido nella mia memoria la foto di me a 6 anni con te e lo zio Luigi fatto sulla roccia accanto al casotto della Rolla. Di me a 14 anni con te, a 4.500 metri sul rifugio più alto d'Europa, e delle gite e delle sciate di fondo che ancora facciamo insieme quando le ferie ce lo permettono. Spero un giorno di trasmettere tutto questo anche a mio figlio, e finché si potrà vorrei che ci fossi anche tu a trasmettergli tutto quello che hai dato a me. Quest'estate vorrei tanto andare in gita io, te, Ste e Simone, per poi fare una bella foto dalla cima della montagna da mostrargli un giorno. Spero altresì di riuscire dove tu non hai potuto, perché è impegnato a lavorare per sostenere la famiglia. Ci sono tante altre cose che vorrei dirti e che non ti ho mai detto. Io parlo tanto, ma poi queste cose le esterno poco. Anzi, ripensandoci, è la seconda volta che ti scrivo e la prima volta è ancora indelebile nei miei ricordi. Quell'occasione, la dedica della tesi di laurea, è stata per me la prima volta che ti ho visto piangere. Hai pianto tanto, come un bimbo, e mi hai fatto capire cosa può realmente provare un figlio, un padre per un figlio, e cosa tu provi per me. Finisco qui queste due righe perché inizio ad avere un groppo in gola. Spero che un giorno Simone possa scrivere una lettera così, parlando di me. Ecco, queste sono proprio due modalità di rivedere la relazione con un padre che ci raccontano due percorsi di vita effettivamente differenti, ed è chiaro che ci piacerebbe di più, no? Sentire che al termine della nostra vita possiamo costruire il significato dell'essere stati con i nostri figli con un po' le caratteristiche che questo figlio riesce a restituire al suo papà. A me quello che piace tanto di questa narrazione è che lui ha proprio un codice maschile positivo che di generazione in generazione è un po', li ha messi tutti sul divano dentro questa lettera. Vede il nonno, vede il papà, vede lo zio, vede se stesso, vede il proprio bambino, li tiene tutti uniti in un filo rosso che è accomunato da una serie di dimensioni astratte, cioè i valori, il lavoro, l'onestà, ma anche molte cose concrete, il fatto che volevi che mangiassimo tutti insieme, il fatto che tu avevi la tua collezione di airone e per me era importante entrarci dentro a quelle cose con te, il fatto che tu mi hai insegnato la montagna e tutto quello che è correlato al mondo della montagna, il fatto che io dentro di me ho tante immagini, tanti scatti, tante fotografie di cose che, essendo io accanto a te mentre le vivevamo, hanno costruito dentro di me il significato della nostra relazione. Andando un po' a guardare in letteratura, non è tanto facile cercare gli aspetti che connotano le caratteristiche di un papà che ce la fa bene con il proprio bambino, ma ho trovato poi in un libro americano che ci sono tre codici, tre caratteristiche che effettivamente sono poi alla base di una relazione padre-figlio dove i papà funzionano bene, dove tra l'altro i papà sono proprio figure che mantengono quella vitalità nel ricordo dei figli come qualcosa che rimane di molto importante. Le tre dimensioni che costruiscono la competenza paterna sono la responsabilità, la disponibilità e il coinvolgimento. La responsabilità appartiene in generale al codice paterno, al codice maschile, e in questo modello viene declinata come il prendersi cura, cioè il saper fare, l'essere in grado di fare i gesti della protezione e della cura in modo concreto, quindi non semplicemente portare a casa un salario, ma concretamente essere in grado di non sostituire la mamma, sia chiaro, ma di poter fare tutte le cose che servono a un figlio con il codice che è invece il codice del papà. Tra l'altro, sempre le neuroscienze ci raccontano una cosa molto interessante, che i nostri figli hanno bisogno di mettere dentro il codice paterno proprio attraverso le interazioni concrete che il papà fa con il proprio bambino. Quando noi tocchiamo il nostro bambino neonato, e lui è molto piccolo, il bambino vede la nostra faccia, sente le nostre mani sul suo corpo, ma la sua mente non è capace di dire quelle mani appartengono a quella faccia. Lui ha proprio registrato nel suo cervello due dati separati, il dato che vede e le mani che lo toccano sono un altro dato. Lui riuscirà a collegare questi due aspetti nella ripetizione degli eventi e soprattutto quando sentirà se il papà cambia il pannolino, il papà di sicuro ha uno stile differente da quello della mamma. La ripetizione dei gesti che vengono fatti dal papà e che sono fondamentalmente gli stessi gesti della mamma, ma che vengono fatti in un modo diverso rispetto a come li fa la mamma, metteranno dentro il codice del papà nel funzionamento mentale di quel bambino. Oltre al tema della responsabilità, però, su cui non approfondisco molto, un codice della competenza paterna è la disponibilità. Provo a darvi l'immagine del papà disponibile. Il papà disponibile è questa cosa qua. È un papà che ha le braccia aperte e il cui figlio sente di poter andare verso quel papà tutte le volte che vuole, ogni volta che ne ha bisogno. Questa in realtà, nella nostra esperienza di figli con il nostro padre, è spesso stata la dimensione su cui siamo rimasti più affaticati. Provo a darvi degli esempi. Telefonata ai genitori di un uomo di 35 anni. Drin, pronto. Ah, sei tu? Va bene, ti passo la mamma. Se andiamo alla domenica con i nipoti a trovare i nonni, il saluto tra figlio e padre è spesso un saluto a distanza, il saluto tra figlio e mamma è in realtà spesso un saluto proprio in presenza, fatto di gesti concreti. Un paziente mi colpiva tanto perché lui è arrivato a chiedere aiuto sentendo un fortissimo disagio, proprio un dolore potente, nel momento in cui ha dovuto assistere il suo papà malato, anziano, dopo che lui aveva assistito la mamma anziana malata che era morta. E lui diceva: io in questa seconda esperienza sto sperimentando una fatica e un disagio che non comprendo, perché con la mia mamma, quando era malata, me i gesti della cura riuscivano naturali, riuscivano spontanei, erano proprio gesti che nutrivano me e nutrivano lei. Quando io sono di fianco al mio papà, questa era proprio l'immagine, è come se fra me e lui ci fosse un cristallo, io provo a fare tutto quello che va fatto, ma dentro sento una fatica enorme. E in realtà, sentendo questa descrizione, questa fatica, mi è venuto proprio in mente la dimensione della disponibilità. Se io provo a raccontarvi la Caterina, a 2 anni e mezzo, perché lì è dove un po' mi si è attivata l'immagine che mi diceva: ma sì, forse sei stato un papà disponibile. La Caterina, noi abbiamo una scala chiocciola che va giù e abbiamo un cancelletto che impedisce di andare nella scala chiocciola, adesso non ce l'abbiamo più, perché sono tutti grandi, ma fino ai 3 anni, 3 anni e mezzo, effettivamente per un bambino di quell'età andare giù da quella scala chiocciola è pericolosa, per cui un giorno la Kate trova il cancelletto aperto e io la vedo che sta correndo come una pazza per andare giù dalla scala chiocciola, per cui devo fare un intervento molto veloce e quello che faccio è urlo: Caterina, fermati! Mi è arrivato il codice ultrapotente, che era un codice che io non ho tanto dentro, però quando serve lo uso. La Caterina si ferma immediatamente e mi guarda e comincia a piangere. Dopo però un millisecondo piangendo, la Caterina viene verso di me correndo e cerca di abbracciarmi intorno alle gambe, cioè sta cercando automaticamente di ricostruire la relazione tra lei e me che è stata interrotta dal mio intervento, dove io ho cambiato il codice affettivo e ho fatto un intervento molto autorevole. Ripensando ad alcune storie anche mie, ecco, a me sarebbe mancato quel movimento di ritorno, cioè se uno non sperimenta una figura paterna che ha dentro alla sua struttura l'accessibilità e la disponibilità con le braccia spalancate, molto probabilmente il codice paterno si attiva nella dimensione che diventa autorità e non autorevolezza, il bambino viene salvato, il bambino piange perché entra in un codice emotivo che lo attiva in un modo faticoso, ma quello che succede è che non c'è il movimento di ritorno verso il papà, cioè rimane congelato in quella posizione dove fondamentalmente non riesce a trovare uno spazio dove sente di poter ricostruire la relazione col suo papà. Ecco, direi che questo rimane un buon monitoraggio sulla nostra precedente storia di vita, cioè quanto è stato faticoso per me, per esempio, rientrare in contatto col mio papà in una zona in cui la relazione si era fratturata, e quanto diventa facile per mio figlio sentire che laddove faccio una posizione di rottura della relazione, quindi mi pongo in modo molto autorevole, c'è sempre però uno spazio dove noi possiamo ricostruire la nostra relazione affettiva, e quindi combinare la dimensione dell'autorevolezza con la dimensione invece della relazione, dell'intimità affettiva. Ecco, questo è un codice che nel maschile spesso non si attiva, perché la potenza diventa a volte un'alternativa non sostituita dalla competenza. Un papà forte è un papà che non lascia quello spazio di ritorno. Questo però lo paghiamo caro poi nel corso della nostra vita, perché spesso le relazioni con la figura paterna sono relazioni che si congelano, che rimangono bloccate dentro un cristallo che non fa bene a nessuno, cioè che blocca proprio la comunicazione intima ed emotiva profonda. Per cui effettivamente quella è una cosa importante per un figlio. La terza dimensione, oltre a responsabilità e disponibilità, è il coinvolgimento, e in questo effettivamente noi uomini ci siamo molto trasformati rispetto ai papà che abbiamo avuto, e un po' come immagine darei quella del papà che sa stare sul tappeto a giocare con il suo bambino quando il bambino è piccolo e progressivamente sa coinvolgersi nelle esperienze che per il bambino sono importanti, e al fianco del quale bambino il papà decide volontariamente di stare, non perché ne ha un vantaggio lui personale, ma perché lì dentro si costruisce una relazione. Quindi il coinvolgimento, che per molti di noi è stato seguire i papà là dove andavano loro, punto e basta, è invece una zona di costruzione della relazione dove padre e figlio identificano dei territori dove gli piace stare insieme, e questa cosa dà soddisfazione reciproca. Avere un papà coinvolto nella propria vita è una di quelle cose che protegge all'infinito la crescita di un figlio. Sentire che il papà è dalla mia parte, sentire che io ho un papà che non è solo per me, cioè che sta attento a fare cose che mi servono, ma che è anche con me, è una cosa fondamentale, e lo è in particolare nel passaggio in preadolescenza e in adolescenza, dove avere un papà che fa il papà, no? Un papà competente, a volte anche potente, un papà con cui si può fare la lotta in termini proprio di competenza emotiva, di dialogo. Io non so di nuovo come va nella vostra famiglia, ma Jacopo in questo senso ci ha davvero sfidato, almeno me mi ha davvero sfidato tanto. È uno di quelli che deve combattere fino all'ultima parola. Per darvi un esempio concreto, 2-3 settimane fa, o 4, adesso non ve lo so collocare bene nel tempo, perché il giorno poi è importante, io sto viaggiando, lui mi chiama sul cellulare e mi dice che è uscito, quel giorno lì è uscito FIFA 2016. Ora, FIFA 2016, tornando a quello che abbiamo detto ieri, è un PEGI 6, quindi dai 6 anni in avanti va bene, quindi è uno di quei videogiochi del calcio che a lui piace tanto e che per noi va bene, lo può avere perché non è un PEGI 18, vietato ai 18 anni. Lui, dal fatto che noi gli diciamo che va bene, ha deciso che è un suo diritto inalienabile, quindi ogni anno quando esce il nuovo FIFA, abbiamo FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15, è arrivato FIFA 16, lui mi chiama e mi dice: papà, oggi esce FIFA 16. E io dico: bene, chissà come sei contento, allora lo andremo a prendere nei prossimi giorni. E lui mi dice: no, io lo voglio, e lo voglio adesso. E io dico: beh, adesso è tanta roba, perché io sono in macchina, la mamma non so dov'è, e poi FIFA 2016, se lo vuoi adesso, te lo devi andare a comprare nel negozio della piazza, che è notoriamente un negozio molto caro. Quindi, quando quindi di sicuro lo paghiamo di più, per esempio, che a comprarlo su Amazon in internet o andare a cercarlo in qualche negozio. Allora costa circa 70 euro, voi lo potete trovare dai 55 agli 80, siccome 70 euro per un quindicenne secondo me è una super spesa, è una di quelle cose dove devi un po' fare attenzione, è una spesa significativa. Io gli propongo che lo avremo entro 7 giorni. Io tornerò a casa stasera e da domani comincio con te la ricerca. Ci diamo 48 ore di tempo per vedere se possiamo risparmiare qualcosa nell'acquisto di FIFA 2016. Quindi la sua risposta è: tu papà mi vuoi triste. E io dico: no, io ti voglio molto felice, io ti voglio col tuo FIFA felice. Ma se tu mi dici che essere felice vuol dire avere FIFA 16 adesso, allora ecco, questa è una felicità che io in questo momento in macchina non sono in grado di concederti. Non so cosa ne pensa la mamma, gli ho detto, ma la mamma ha detto che dovevo sentire te. Ecco, perfetto. Quindi vuol dire che io e la mamma probabilmente abbiamo in testa che questa non è una cosa che la voglio adesso e la puoi avere subito. Partendo da questa cosa che tu mi vuoi triste e che io in realtà gli uso come esempio, che noi da mesi dobbiamo cambiare la macchina che abbiamo da 10 anni, e lui ci ha visto negli ultimi 4-5 mesi fare un bel po' di passaggi prima di comprare la macchina in modo definitivo, e ci abbiamo messo 4-5 mesi e io gli ho detto: guarda, ma in fine dei conti per te FIFA 2016 è un po' come per noi comprare la macchina, cioè un acquisto importante, quindi non abbiamo detto vogliamo la macchina nuova, la vogliamo oggi e siamo andati a comprarcela. Abbiamo fatto un po' di lavoro intorno a questo. Nei successivi 40 minuti, Jacopo, c'è una mamma voluta. Nei successivi 40 minuti Jacopo mi tiene al telefono e fondamentalmente lui usa tutte le sue strategie, quelle da cervello E, dove mi vuol far capire che se non ce l'avrà adesso io sarò un padre cattivo, e alla fine dei 40 minuti io gli dico: guarda Jacopo, questa conversazione non andrà da nessuna parte, perché per farla finire bene io l'unico spazio che mi dai è dirti vai a comprartelo subito. Io non posso dirti questa cosa perché non mi appartiene, appartiene a te, quindi se questo è quello che ti deve dire il tuo papà io non te lo dico, te lo dici da solo, ti prendi la tua responsabilità, vai a comprare il tuo videogioco se questo è quello che vuoi fare, sappi che non siamo in accordo, io ti ho detto di aspettare a farlo, prenditi la tua responsabilità. Io ti ho detto per me non ci devi andare, tu vuoi fare una trasgressione, prendi e vai. Lui mette giù il telefono dicendo: sei sempre il solito, nella logica che è proprio sfortunato ad avere un papà come il suo. Io non so che cosa succede, e in realtà da lì a un'ora lui mi chiama e mi dice: papà, però sappi che se io entro 7 giorni non ho FIFA 2016, io ne farò di tutti i colori, mi comunicava, e io gli prometto che noi entro 7 giorni saremo proprietari di FIFA 2016. Allora, in quella zona lì, secondo me, questo genere di allenamento padre-figlio ce lo possiamo permettere solo nel momento in cui lui sente di avere a disposizione un genitore che in realtà ha fatto, no, un bel po' di quel genere di schermaglie, di allenamento reciproco, cioè c'è un coinvolgimento dove sento che posso avere accesso a 30-40 minuti per discutere una questione così importante. In generale il coinvolgimento non è solo che dobbiamo litigare, dobbiamo fare la guerra, ma che possiamo fare un bel po' di cose belle insieme, e nel riassumere le tre dimensioni, responsabilità, disponibilità e coinvolgimento, io vi invito proprio un po' a ripensare alla storia di figli che siete stati con i vostri papà, alla storia del papà che siete, oppure se siete qua voi mamme, del papà che avete al vostro fianco, per identificare quali sono quelle zone in cui magari potete rinforzarvi un po'. Per darvi un aiuto vi faccio vedere 4 minuti del papà di Mafalda, sono proprio brevissimi cartoni animati, molto molto divertenti, perché io quando ho visto i cartoni di Mafalda con il suo papà, ho davvero visto un papà che per la prima volta non era una macchietta e aveva dentro un codice fatto di tutti e tre questi ingredienti. Hmm. sì. La signora della scienza. Una sera di pipi. Ok, allora credo il tempo, vedo che è praticamente finito. Il papà di Mafalda, secondo me, ha dentro proprio un codice che ci fa vedere che la mamma di Mafalda non funzionerebbe mai in molte situazioni così come funziona lui. Lui è proprio diverso dalla mamma, eppure quel modo di sincronizzare due codici, due stili, alla fine diventa molto armonico. Si vede che i bambini dentro a quell'offerta, no? Di un materno e di un paterno, di un maschile e di un femminile, stanno molto bene. Ma quello che vediamo nella scena finale è che materno e paterno riescono a coesistere bene dentro un maschile e femminile adulto che continua a funzionare bene, cioè non solo mamma e papà, ma anche uomo e donna, compagno e compagna, marito e moglie, a seconda delle situazioni, dove la fatica di sintonizzarsi e di sincronizzarsi nelle profonde trasformazioni che avvengono quando diventiamo genitori non fa però perdere di vista agli adulti la zona adulta della loro coppia. Direi che di nuovo nel mio lavoro questa è moltissime volte la percezione, la richiesta di consulenza per eccellenza. Dopo è un po' anche il motivo per cui abbiamo scritto io e Barbara Marte e Venere, cioè arriva un figlio dentro alla coppia e il fenomeno poi viene chiamato baby clash, cioè c'è un numero significativo di coppie che entrano profondamente in una zona di grande fatica proprio nei primi 3 anni della vita, che anche noi abbiamo chiamato il tunnel. Eravamo senza nonni che ci aiutassero, è stato tutto parecchio faticoso. Quando un figlio usciva dal tunnel ne arrivava un altro e quindi si ricominciava da capo. Siamo stati dentro 11 anni in quella zona lì, che è una zona molto sfidante, perché nel tentativo di essere poi buone mamme e papà a volte effettivamente abbiamo faticato tanto, no? A tenere in piedi anche il nostro essere compagno e compagna, marito e moglie, uomo e donna, ad avere una zona adulta di attivazione. Non so dirvi come ci siamo riusciti, se ci siamo riusciti bene, al momento siamo ancora qui, quindi di sicuro siamo sopravvissuti. Credo che il tenere insieme per noi il maschile e il femminile abbia comportato un importante lavoro di revisione del maschile e del femminile che avevamo imparato nelle nostre famiglie d'origine. Un po' è anche il mestiere che faccio, ma sia io che lei alla fine siamo finiti in terapia tutte e due a farci un po' aiutare, perché il meccanismo era un meccanismo un po' affaticato e quindi da soli, pur avendo tante competenze, era come se su alcune cose non fossimo poi così capaci. Non è una cosa che vi dico dovete fare voi, no, per noi è stata proprio una zona, da una parte di fatica, dall'altra io credo per noi utile, per noi è stata necessaria. Abbiamo trovato il nostro modo, che è il nostro, non può essere quello degli altri. Credo che questo ci ha permesso poi di comunicare un maschile, un femminile, un paterno, un materno molto differente, e per quanto nelle differenze comunque integrato ai nostri figli. E per concludere io vi vorrei leggere da una filastrocca che ho scritto io e che secondo me racconta bene che cosa per me la mia esperienza di papà con i miei figli. Ho proprio immaginato che alla fine un po' mentre vedevo la forza del materno che dava protezione, radici, accudimento ai miei figli, io ho pensato che la mamma era molto potente nel dare radici e il papà tante volte ha provato invece a dare un paio d'ali, cioè a favorire le zone di esplorazione della vita. Una delle cose belle che sono riuscito a fare per il momento con i miei due figli più grandi sono state proprio dei viaggi da soli, noi, per pochi giorni, ma viaggi intensi dove l'idea era proprio ti porto un po' in giro a vedere il mondo, a vedere delle cose che per la prima volta le vedi con il tuo papà. E quindi alla fine mi sono proprio un po' immaginato, no, che le mani di un papà, magari mani un po' maldestre, mani certamente non così protettive o delicate come le mamme, come le mani amorevoli della mamma, lasciano comunque un segno importante nella vita dei figli. Le tue mani, papà, sono le mie ali, sono due doni preziosi che regali a me che all'inizio della vita, in ogni sfida, vedo una salita. Con quelle ali tu mi fai volare e nuove mete mi aiuti a conquistare. Con te vicino mi alzo e resto in volo, con la tua guida non mi sento mai solo. La tua forza mi dona sicurezza, il tuo sguardo mi infonde tenerezza. Insieme a te volerò e potrò scoprire l'uomo che sarò. Io per partire, per il lungo viaggio che mi aspetta, ho bisogno di qualcuno che mi metta un sigillo di amore e appartenenza, un quintale di allegria e un po' di pazienza, una tazza di severa comprensione, un abbraccio che comunica emozione, la tua barba che sfrega la mia pelle, il tuo dito che mi indica le stelle. Di queste cose son colme le tue mani, accompagnami, papà, nel mio domani. E per par condicio, però, io ho chiesto anche a mia moglie Barbara di scrivere un messaggio di conclusione che ci aiutasse a capire perché i papà vengono da Marte e le mamme vengono da Venere. E quindi questo è quello che lei mi ha scritto. Allora mettiti comodo, prometto, proverò a essere imparziale, a raccontarti quello che ho capito di come funzionano differentemente le nostre menti. Quando abbiamo scritto il nostro libro insieme ci siamo confrontati moltissimo sulle differenze con cui abbiamo vissuto l'avventura di diventare genitori. L'abbiamo raccontata partendo da fatti concreti che abbiamo vissuto, da fatti solo in apparenza banali, dai quali abbiamo imparato molto. La vita è proprio questo, cogliere l'infinito nel piccolo, imparare una teoria da un errore, da una parola detta male, da una reazione che non volevamo avere. E allora proverò qui a dire le cose più importanti che ho scritto nella mia memoria di moglie. Ho capito che quando tu non fai quello che io vorrei tanto che tu facessi per me, devo dirtelo. Noi donne siamo complicate, ci sono momenti in cui ci sentiamo molto bisognose di affetto e sostegno. Non parlo di aiuto concreto, anche quello è molto importante, ma qui penso alle volte in cui ci sentiamo tristi, inutili, sole, deboli. So che capita anche agli uomini di sentirsi così, però la vostra mente è più anestetizzata. È raro vedervi con l'occhio ramingo in cerca di orizzonti rassicuranti. Di solito preferite guardare cose concrete, il computer, una fetta di torta, un pallone. Io credo che siate più bravi a tenere i pensieri a bada. A me capita un sacco di volte al giorno di commuovermi di fronte a cose banali. Una commozione discreta, che non si vede. Mi capita vedendo mia figlia più grande che sostiene il fratellino che sta imparando ad andare in bicicletta. Mi capita se tu mi leggi un pezzo che hai scritto. Se vedo due persone che si scambiano un gesto d'affetto. Noi donne siamo più di pancia. È una danza che è guidata dai nostri ormoni, siamo predisposte ad appassionarci per la vita e a sentirla in grembo. Tracimiamo emozioni, anche se non tutti allo stesso modo, perché la storia di ciascuno determina percorsi molto diversi. Però questa traccia è scritta in noi. Ho capito che non devo mai lasciare che la distanza tra il nostro modo diverso di sentire la vita ci allontani. Ogni giorno dobbiamo trovare la maniera di comunicare, di fare una sintesi creativa tra sentire e organizzare. Per me il tuo senso pratico è così utile, a volte pedante e noioso, lo ammetto, ma necessario come l'aria. Non smetteremo mai di essere diversi. Mi capita, magari dopo che abbiamo discusso di qualcosa, di pensare che questa differenza è identica al primo giorno in cui ci siamo conosciuti. La visione di ciò a volte mi spaventa. Siamo ancora qui? È il fumetto che apparirebbe se i nostri pensieri avessero un software di videoscrittura. Questa consapevolezza, quando la rabbia o la delusione si placano, quando il bene che ci unisce torna a essere il primo pensiero, si colora di tinte nuove. Diventa il nutrimento del nostro rapporto, quello che non ci fa mai annoiare, che ci fa sentire in viaggio. Le differenze obbligano a non fermarsi, a trovare le parole per raggiungersi. è uno sport che non prevede limiti di età. Ho imparato che ogni volta che mi sento ferita o delusa per qualcosa che hai fatto, cerco di non fermarmi alla prima reazione, cerco di guardare oltre, di sentire anche la tua parte di ragione. Se ci riesco, scopro la bellezza dell'incontro e il miracolo dell'amore. Si realizza la promessa dove due o tre sono riuniti nel mio nome e io sarò con loro. Se non metto il mio sentire al primo posto, io ti scopro. So che non ho detto molto su quali sono le differenze tra uomo e donna, ma leggendo molti libri e guardandomi attorno, scopro che non ci sono caratteristiche solo degli uomini o solo delle donne. Ci sono delle attitudini, dei funzionamenti mentali diversi, c'è una chimica differente, ma poi è la storia di ciascuno che genera esseri unici e speciali. Ho capito che non serve tanto teorizzare le differenze di genere. Voglio prometterti piuttosto di non stancarmi mai nell'allenarmi all'incontro, qualsiasi siano le differenze. So che tu fai lo stesso. Vi ringrazio. Ringraziamo Alberto tantissimo per quello che ci ha raccontato e soprattutto perché ci ha fatto entrare un po' in casa sua. Ringraziamo tanto tua moglie che ci ha regalato dei pezzi preziosi anche con le sue riflessioni. Adesso abbiamo 20 minuti, mezz'oretta per poter chiacchierare con lui. A ogni domanda che raccoglieremo, come ieri sera, lui inizierà a dare una risposta. Intanto facciamo girare questa, che è una piccola scatola che ci permetterà di fare tante cose. Dico io perché ieri ha portato fortuna, allora ricomincio io con la scatola. È un segno di partecipazione vostra, e chi c'è già stato ieri sa di cosa si tratta e chi è già stato generoso ieri può farla passare, darle una benedizione e farla proseguire. Magari chi è qua questa sera e non c'era ieri, se nella busta che vi è stata consegnata all'ingresso o se semplicemente potete contribuire alla realizzazione di queste due sere, in particolare questa sera pensano di dare anche un piccolo compenso agli animatori che con un po' di fatica, ma ce la stanno facendo a tenere quasi tutti i numerosissimi bambini vivi, e abbiate pazienza di qualche entrata, ma sono davvero tanti e stanno facendo molto molto, sono tutti sani e salvi, quindi la scatola non so gli animatori, sì, la scatola gira, poi la controlla, la prendiamo alla fine. All'ingresso vi è stato consegnato questo segnalibro che ha una duplice funzione. La prima è quella di pubblicizzare e darvi conto di tre appuntamenti che sono organizzati dagli uffici famiglia della provincia di Cuneo che si tengono a Fossano. Molti di voi hanno già partecipato, riprendono anche quest'anno. Sono temi che riguardano la coppia e la famiglia, li vedete, i titoli sono accattivanti, anche lì c'è animazione dei bimbi, eccetera. La seconda funzione altrettanto importante è quella per cui è stato fatto in questo formato, che è un segnalibro per appunto tenere il punto in cui siamo arrivati sui libri che potrete acquistare all'uscita di Pellai e di sua moglie. Il suggerimento è questo, siamo già quasi in clima natalizio, per cui potrebbe essere anche un suggerimento di pensare a noi e magari a un possibile regalo. Passi tu con il microfono per le domande, ad ogni domanda Alberto può rispondere. Se riusciamo a finire a meno 10, così poi recuperiamo i figli e diamo la possibilità a lui di partire. Buonasera, grazie mille delle cose che ci ha detto. Senta, le due lettere mi hanno tranquillizzato molto, perché il papà che si comporta bene, il figlio vorrà essere come il papà. Il papà che si comporta male, il figlio cercherà di essere diverso. Quindi comunque vada, sarà un successo. Così è. Io credo che questo poi è proprio un po' il senso in cui noi rivediamo le nostre storie di vita. Cioè quando non rimaniamo intrappolati dentro, non rimaniamo invischiati in un dolore che non siamo riusciti a superare, noi impariamo dalla nostra storia, conseguentemente se qualcosa ci ha fatto male, la nostra salvezza e dire che in quella zona lì noi non potevamo scegliere molto, ma adesso che siamo adulti noi possiamo scegliere, quindi faremo differentemente. Se in quella, nella nostra infanzia siamo stati molto bene e non lo avevamo scelto, ce lo siamo trovati, dentro di noi abbiamo un file attivo e operativo che ci permetterà di avere la memoria del bene che abbiamo ricevuto e quindi più facilmente poi di trasferirla anche nei confronti dei figli di cui, del cui bene noi siamo responsabili, perché noi loro li abbiamo scelti, e quindi comunque vada, in questo modello elaborato sarà un successo, certo. Sì, anche le mamme. No, ma ci veniva la preoccupazione che ieri sera abbiamo sentito diverse mamme che dicevano: ah, domani sera porto mio marito, faccio venire mio marito. Sembrava più una spedizione punitiva che una. Quindi magari qualche è interessante, perché anche al cerchio dei papà, il primo giorno, quando arrivano i papà, noi facciamo questo esperimento sempre tutte le volte, sembra anche un po' sadico. Li portiamo nella saletta del cerchio dei papà, loro non si conoscono, si siedono tutti in cerchio e noi due conduttori, siamo un uomo e una donna che riprende proprio il modello della coppia genitoriale, stiamo fuori 10 minuti. E la cosa che succede è che questi uomini in cerchio guardano tutti il loro cellulare e non ce la fanno a chiacchierare fra di loro, mentre questa cosa è già cambiata al secondo incontro. Se ci pensate, le mamme si trovano subito tutte insieme e cominciano a chiacchierare. Se poi diciamo ai papà: ma perché siete qua? 9 su 10 rispondono: perché mi ha mandato mia moglie, sono stato inviato in missione. Poi però è molto interessante, perché quasi tutti dicono: ah, però, questa cosa proprio mi piace. La domanda con cui si chiude sempre il primo incontro è questa: 9 su 10 di voi sono arrivati perché siete stati mandati, la volta prossima venite perché vi piace, venite perché vi invieranno ancora, decidete di stare a casa. E subito, no? Siccome in quel primo cerchio abbiamo costruito una buona comunicazione emotiva tra uomini, tutti dicono: no, no, io ci voglio essere la prossima volta. Buonasera. Allora, la mia domanda è un po' riferita a ieri sera, perché poi oggi, pensando alle cose ascoltate ieri sera, noi abbiamo un figlio di 8 anni, è un amante della musica, lui ascolta musica, in questo periodo ascolta ripetutamente Ligabue, sa tutto l'ultimo CD a memoria, eccetera. Ha avuto la fase Jovanotti, ha avuto la fase Elisa. Volevamo un po' così, avere anche un consiglio sulla musica, no? Visto che sovente i testi hanno infilato, come ieri sera ascoltavamo le Bratz, la modalità, cioè assecondare, indirizzare. Beh, intanto avete un figlio molto raffinato, mi sembra, come gusti, cioè potete essere contenti. In generale io mi sento di dire: se ascolta Ligabue trova la vita a 360 gradi, l'amore, il sesso, ma trova un po' tutto, non trova solo una cosa. Delle Bratz, quello che non ci piaceva ieri sera è che poi alla fine è veramente un po' monotematico, cioè solo un femminile molto adultizzato e nient'altro. Quindi su una passione per un cantautore da grandi come Ligabue io rimarrei bello tranquillo, anzi direi ha una sensibilità artistica. Se mi fa domande, se invece mentre canta poi si ferma e dice: mamma, ma questo cosa significa, oppure perché canta questa cosa, eccetera, allora su lì mi sintonizzo. Cioè, se mi sta facendo una domanda è perché quel tema, quella parola, quella frase dentro di lui sono diventati non più solo un suono ma un pensiero pensato, e a quel punto io mi devo mettere a disposizione. Quindi nel caso di un bambino di 8 anni che canta Ligabue potrebbe proprio essere che ascolta delle parole o dei testi che diventano non più solo suono ma pensieri pensati su cui ha bisogno di confrontarsi. E questo effettivamente a casa nostra con quattro figli ascoltiamo di tutto, dallo Zecchino a Giovanotti a Ligabue, e questo significa che a volte la Caterina o il Pietro sentono proprio delle cose su cui fanno domande. Se ci fanno domande, allora si meritano delle risposte adeguate, che in modo semplice raccontino però in modo veritiero quello che ci stanno chiedendo. Grazie, buonasera. Volevo sapere una curiosità. Io ho un figlio, 15 anni, noto che già da tempo cerca di, vuol dire, di cercare una sua strada. Quindi sto parlando per la caratteristica del coinvolgimento. Noto che la sua tendenza è quella di non volere il coinvolgimento dei genitori. È normale, come dobbiamo comportarci? A 15 anni credo che sia proprio una bella cosa, cioè il fatto che ci chiedono, già cominciato da quanto, non lo so, comunque in una zona dove si individuano come coloro che vogliono un po' fare da soli, quella è la loro zona di competenza. Sentire che il genitore li lascia andare, quindi un genitore che è sempre stato magari un po' davanti o un po' di fianco, su alcuni territori della vita di un figlio si mette dietro e, come dire, vai, ok, credo che questa cosa qua, nella zona, nel passaggio da seconda infanzia, preadolescenza, adolescenza, laddove io ho chiaro quello che sta facendo, il percorso in cui si sta individuando, abbia molto senso. A me viene in mente un genitore che mi diceva: adesso ha imparato ad andare in bicicletta, dopodiché è sempre andato in bicicletta in cortile, poi mi ha detto: ma io adesso voglio andare in bicicletta anche fuori. Quindi siamo andati fuori e io gli stavo o sempre davanti o sempre di fianco, e a un certo punto mi ha detto: papà, ma quando è che mandi davanti me? Allora, questa è una frase che ci sta molto bene, che significa proprio: adesso segno un po' io il territorio e tu stai nella tua zona perché devo andare. E secondo me in quella zona della vita ha senso. Quindi se non mi vuole troppo coinvolto, sta proprio cercando di definire che quello è un territorio suo, che lui sta diventando quello che un po' vuole essere. Quella è una zona di individuazione per sé. Rimane qualche zona in cui fa... Ma per esempio mangiamo insieme noi, mangiate insieme, sì, ok, il fatto che noi teniamo, no, su alcune cose, mangiamo insieme, questa è una cosa importante, dove noi rimaniamo famiglia. Una vacanza all'anno la dobbiamo fare insieme, ecco. Con i 15-16 anni, questa è quella zona dove noi dobbiamo tenere bene delle aree di contatto stabili e costanti, ed effettivamente poi questi mettono le ali, invece chiedono che su tante altre zone e territori noi dobbiamo avere il presidio del territorio, in termini di che non entrino troppo in una zona a rischio, cioè che sappiamo quello che stanno facendo e sappiamo che loro sanno quello che stanno facendo. E qua sì, dobbiamo proprio abituarci a vederli andare. Questa è una roba che ci fa un po' soffrire. Qua c'erano le parole adozione e affido, che probabilmente qualcuno ha... io non mi addentro in particolare nel tema dell'adozione e affido perché non sono effettivamente molto esperto. In generale quello che mi sento di dire è che di sicuro è una situazione sfidante. Essere gli adulti di riferimento in una situazione di affido è: noi siamo dei co-genitori di una coppia genitoriale che c'è e che ci sarà. Noi siamo proprio co-genitori che aiutano, dovrebbe essere che aiutano gli altri genitori a diventare genitori migliori e che quindi nel frattempo si occupano in modo significativo dei loro figli. Nella storia dell'adozione invece noi siamo la mamma e il papà, solo che io credo che il percorso non sia molto generalizzabile, perché dipende quando siamo diventati genitori adottivi rispetto alla storia di vita del figlio, cioè che cosa è rimasto della prima zona di vita del figlio. Questo spesso anche in terapia, quando in adolescenza l'adozione, il figlio adottato entra in una zona che è veramente molto tsunamica, molto vulcanica, perché quella che è la fase della vita in cui io mi devo individuare e devo definire bene le caratteristiche, da dove vengo e dove intendo andare, quella zona del da dove vengo parla di una ferita, di un abbandono, di una lacerazione su cui io genitore adottivo in realtà non ho responsabilità. Io ho fatto tutto il lavoro dopo, e però noi non sappiamo come è entrata e come è stata elaborata quella ferita originaria nella storia di vita del bambino quando è entrato nella nostra vita. Per cui è veramente un po' un'altra conferenza, e io non sono la persona più indicata per darvi risposta. Io ho un figlio che ha 14 anni e ci sono andiamo molto a giorni, ci sono dei giorni che si sveglia e che non capisco niente e vado a coricarmi convinta di non aver ancora capito niente di come è andata la giornata. E in questo periodo lui prende di punta certe cose, come può essere lo sport, come può essere tante altre cose, lo faccio, lo voglio fare, dopo poco tempo non lo faccio più. Io sono quella che ogni tanto dico, vabbè, però a 14 anni ti prendo un impegno e lo devi portare a termine. Tante volte invece mio marito è più quello che dice, però a questa età qua è giusto che facciano le sue scelte e che ci sbattono. Cioè, qual è la giusta posizione che bisogna avere con un ragazzino di 14 anni? Direi che intanto, cioè questa descrizione racconta bene l'adolescenza come montagne russe emotive, cioè un continuo alternarsi di su e giù, di alti e bassi, su cui spesso lo stesso ragazzo non ha nemmeno completamente il controllo, perché è molto in quella zona che abbiamo visto ieri di attivazione della zona E, della zona emotiva del suo cervello. Detto questo, direi pochissimi punti saldi su cui non si transige. L'andare a scuola, quante volte provano a fare negoziazioni, entro prima, esco dopo, domani salto, No, sull'andare a scuola, quella è una cosa su cui non negozio. Su qual è lo sport a cui mi iscrivo, L'idea è che te ne scegli uno. Se è uno sport nuovo, può proprio essere che fa un tentativo, fa un'esplorazione, e gli diciamo hai un mese di tempo, due mesi di tempo, poi se rimani dentro, se in questi due mesi ti convinci che questo è il tuo sport, ci stai, altrimenti puoi sceglierne un altro, punto. Però non possiamo ogni due mesi cambiare lo sport, il che significa che il meccanismo delle montagne russe lo prevedo, ma dentro una cornice che ha dei confini o ha dei limiti. Dopodiché ha molto senso, cioè l'altra cosa che vedo io è questa, quanto in questo momento la sua richiesta nasce davvero da una fatica oggettiva o quanto lui è un po' in balia di un meccanismo che non riesce neanche a controllare, e questo un po' lo dovrei sentire io di pancia, Cioè quando Jacopo ha detto non vado più agli scout perché il calcio è diventato molto impegnativo, mi stava proprio dicendo una roba oggettiva, era un continuo conflitto tra l'uscita degli scout e la roba del calcio, e chiaramente in quel momento a lui serviva di più il calcio, la sua scelta era lì, basta, mi sembra un conflitto sano, e conseguentemente lui mi sta dicendo non mi disimpegno, ma mi iperimpegno in una cosa, e magari è contro, no, a quello che io avrei voluto, però è una roba sua, deve andare. Deve fare, perfetto, la motivazione c'è per disattivare un file che è stato attivo. Se Pietro invece mi dice non faccio più piano, e io mi interrogo, ma lui ha molto talento, sta facendo piano, perché non fai più piano? E mi dice perché così ho più tempo per giocare alla play, perché lui 9 anni, ok, non è un buon motivo. Pietro, non è un buon motivo, punto. Quello che ci aspettiamo da te è che per un altro anno prosegui, perché hai il tempo, possiamo permettercelo, la maestra ha detto che ti segue molto volentieri per un altro anno, teniamo duro. Ultima domanda. Buonasera, sono il papà di una ragazza di 13 anni con cui ogni giorno mi scorno in un modo incredibile perché è un periodo difficilissimo e vorrei tanto fare il papà e avere questo codice sano, però sento che questa cosa qua mi manca, anche perché nella mia vita io ho perso il papà che avevo 5 anni, poi mia mamma si è risposata dopo, è come se questo codice fosse sconnesso o comunque questa figura paterna fosse un po' facilmente seguibile, non riesco a trovare un appiglio o un esempio a cui agganciarmi e quindi è veramente difficilissimo, cioè mi trovo tante volte a voler essere io il figlio, no? A dire cioè, c'è qualcuno che può aiutarmi in questa casa, invece c'è Emma da seguire ed Emma è una ragazza che ha anche qualche problema, quindi è difficilmente gestibile. Ma io credo che ci ha fatto proprio un racconto vivo e secondo me anche molto sano per come ha messo insieme un po' tutti i pezzi. A me piacerebbe dirle che c'è un modo diverso e invece io personalmente lo sperimento anche come papà, cioè lo scornarci spesso, il dover fare tutta quella fatica lì tutti i giorni è inevitabile. Stiamo scrivendo un libro proprio sulla preadolescenza e lo chiameremo l'età dello tsunami perché ha proprio questa roba qua, arriva, travolge. Ed è, io ogni tanto dicevo a Jacopo, ma io non so se a furia di combattere così con te, io arrivo vivo ai tuoi 18 anni. E ogni tanto il messaggio che gli do è, ma Jacopo, ma noi andremo avanti fino ai 18 anni con questa roba qua. Lui ha fatto proprio 2 anni con la spada in mano, ma una cosa da guerriero. Ecco, devo dire che tra i 14 e i 15 anni è come se io avessi visto un po' quello che leggo nei libri di neuroscienze, come se tutta quella roba lì si è un po' calmata e ci sono proprio delle zone di ampio respiro, tanto che quando lo vediamo così placato ci domandiamo, ma è nostro figlio? È lo stesso. D'altro canto mi sento di dire che stare lì e scornarci un po' e guerreggiare a loro serve tanto, cioè se loro devono farsi una buona muscolatura emotiva hanno bisogno di fare la box con un pugilatore valido. Io credo che noi perdiamo il contatto con loro e perdiamo il ruolo quando noi entriamo nella stessa loro emozione, cioè loro sono travolti dalla rabbia e noi ci facciamo travolgere dalla rabbia. Allora lì dobbiamo proprio fare un passo indietro, perché noi siamo gli adulti, loro possono permettersi di sregolarsi perché il loro cervello funziona in quel modo. Io devo proprio sentire che io gli posso dire, guarda Emma, in questo momento sei così arrabbiata, sei così invadente, sei così arrogante, sei così pesante che mi stai facendo arrabbiare, ma io non ti servo a niente arrabbiato, io se devo parlare con te di qualcosa devo essere tranquillo, perciò ci diamo appuntamento fra un quarto d'ora, che quello è un modo con cui cominciamo a non stare lì, tra un quarto d'ora ti aspetto. Un'altra cosa che a noi è servito veramente tanto è che io e Jacopo in automatico dentro alle discussioni alziamo la voce, cioè ci viene proprio la rabbia, ce la fa tirare su e quindi la regola che ci siamo dati è che quando parliamo nessuno può alzare la voce, possiamo dire tutto quello che vogliamo e questo in automatico fa sì che lui mi dice stai alzando la voce, fa sì che io gli dico stai gridando Jacopo, così non si può parlare e questo ci dà molta più capacità di monitoraggio nella zona in cui siamo così in conflitto. Sì. Ancora uno. È perché mi è piaciuta questa questo episodio di FIFA 2016, no? Tu forse hai lavorato più sulla responsabilità di tuo figlio, io invece lavoro molto sulla coscienza, sapendo che, cioè, se lavoro sulla coscienza e dico, ah, fatti tuoi, mi aspetto che lui faccia esattamente quello che io gli dico. Penso che durerà ancora un po', poi basta. Quindi, cioè, il passaggio dal lavorare sulla coscienza al lavorare, cioè a giocare sulla coscienza di mio figlio, me ne rendo conto, al invece passargli la palla sulla responsabilità. Secondo me in prima adolescenza, tra i 14 e i 16 anni, questa è una cosa che deve avvenire tanto. Cioè, per esempio, se io sento che Jacopo ha effettivamente sulla scuola, non è uno che ci muore dietro, però lui ha una sua identità per cui vuole comunque funzionare abbastanza bene, mica che devo prendere 8 e 9, no, se sono in quella zona tra il 6 e mezzo e il 7 mi sento abbastanza tranquillo, perciò se arriva un 5, io adesso sento proprio, questo me l'ha per esempio messo più dentro Barbara, che già lui quando ce lo racconta, ho preso 5, a me venivano in automatico da ripercorrere tutto quel meccanismo che avevo sentito io da ragazzo, e invece no, una ottima risposta per lui è mi spiace per te, punto. Quando io dico mi spiace per te, questo in automatico, da lì a 5 minuti, gli fa fare una filippica, un'analisi di quel 5, che se io gli avessi chiesto, beh, raccontamelo, spiegamelo un po', lui mi dice quanto rompi le scatole, papà, ma sì, mi spiace per te, punto. Quindi sta in una zona dove deve decidere lui che cos'è quel 5 per lui. E io vedo che questa cosa che restituisce, in effetti, se avesse tutti 5, no, dovrei fare un intervento genitoriale. Ma se arriva questa cosa che lui deve capire dentro alla sua identità di studente, come se la vede? Per me può prenderne 3, 4, di 5 in varie materie che non mi allarmo. Suo primo voto al liceo scientifico, entra tutto felice in casa e canta. E io dico, mamma, è andata bene. Cosa hai preso, Jacopo? 3. Noi non avevamo mai visto un 3 in vita nostra. E quindi a me davvero stupiva, no, questa sorta di soddisfazione. E dico, mamma mia, come sei contento per un 3. E lui mi dice, beh, perché un sacco di miei compagni hanno preso 2. Pensavo di averlo fatto veramente male. Dentro di me, però, proprio considerando che un po' lo conosco e che non è uno sprovveduto, mi ha fatto dire, possiamo proprio stare un po' calmi, perché è come se lui mi stesse dicendo, ecco, ce la farò, cioè io imparo a gestirmelo questa cosa, non è... E io ho detto, guarda, vediamo come va il prossimo, quello dopo era 5 e mezzo, siamo arrivati a 10 e poi siamo tornati un po' indietro, avanti e indietro, però quello che un po', secondo me, era molto valido era proprio questa cosa, che è come se il suo stato d'animo non fosse solo superficialità, fosse dentro un suo modello di competenza che stava cercando di mettere a punto, non gli era chiaro, però in quel caso bisognava lasciarlo fare, perché effettivamente sulla scuola lui ha una sua competenza e quindi non devo invadere troppo. Ne abbiamo dette abbastanza? Va bene, mi sono divertito molto io in queste due serate, grazie molte. Papà, come si dice? No, allora, una notizia solo di servizio, i bimbi piccoli sono usciti sulla destra, no, non sono usciti, cioè voi, scusate, uscite dalla porta e li trovate sulla destra, dove penso li abbiate lasciati, quelli un pochino più grandi dell'elementare invece dovete proprio uscire dalla porta, girare a destra e la prima porta a destra li sentirete urlare, cantare, giocare, stanno tutti bene, recuperiamoli. Adesso diciamo agli animatori di farli portare qua, vi incrocerete. Chi ha intenzione di acquistare dei libri, se lo riesce a fare nel giro di 10 minuti, così diamo la libertà ad Alberto di ritornare, al quale diciamo di salutarci tanto Barbara, soprattutto Jacopo, che è diventato molto molto simpatico. Mentre ci salutiamo, vi ricordo solo che sul nostro sito potete ritrovare le registrazioni delle due serate, perché gentilmente ci concede Alberto di metterle a disposizione, per cui se volete sentire quella che avete perso, se volete suggerire a qualcuno di sentirle tutte e due, potete farlo. Il sito era scritto sulla scatola, ma mi sono dimenticata di dirlo, però basta che mettiate Mondo V Age su Google, è il primo che esce e lo trovate. Si chiama WordPress. Aspetta, lo sai? agemvi.wordpress.com. Ci sono anche le registrazioni di altre conferenze delle altre scuole genitori precedenti. Grazie, ci vediamo l'anno prossimo.